Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan, che legge le notizie attraverso l'animalità. Questa redazione, infatti, mette gli altri animali in pole position in ogni tipo di dibattito. Cerchiamo quindi gli altri animali nelle notizie di attualità, cultura, economia, medicina, alimentazione, filosofia, spiritualità e altro ancora. Nella puntata di oggi, che è la numero 669, parleremo di COP27, la conferenza sul clima che si è recentemente chiusa a Sharm el Sheikh. Sugli esiti si esprimerà Francesco Panier, il nostro esperto di giornalismo ambientale. Parleremo poi del procione dello zoo di Kherson in Ucraina e delle interpretazioni un po' fuorvianti che sono state date al video che lo riguarda. Approfondiremo poi il tema delle proteine del futuro con una carrellata di quelle che sono le reazioni italiane alla carne coltivata in laboratorio da cellule animali. Ci sarà spazio anche per parlare di pecore che girano in tondo in modo misterioso in Mongolia e di un pitone trovato tristemente morto di freddo in un canale di scolo a Milano. Non mancherà una ricetta vegana dedicata alla città di Sharm el Sheikh e tanta ottima musica, e tutto questo sarà a cura del nostro eclettico Gabriele Palloni. Speriamo di avervi incuriositi. Partiamo per il nostro viaggio di oggi attraverso le cronache animali da Sharm el Sheikh in Egitto, dove si è svolta la COP27, conferenza globale sul clima, alla quale il mondo intero guarda con preoccupazione e speranza, perché ormai nessuno ignora il fatto che il futuro stesso del pianeta e l'estinzione di molte specie viventi, inclusa quella umana, dipendono proprio dal clima. Purtroppo sappiamo che esiste il fenomeno delle migrazioni ambientali, persone quindi che devono abbandonare le loro terre, la loro casa per la siccità, per le inondazioni, per le incursioni di insetti in proporzioni mai viste, per la fame. In Somalia, per esempio, 7 milioni di persone rischiano di morire di fame. La metà dei bambini è gravemente malnutrita proprio per ragioni climatiche, perché in alcune regioni di quel paese non piove, pensate, da 3 anni. I paesi più poveri sono quelli che consumano meno combustibili, ma sono anche quelli che soffrono di più i danni di un progresso di cui beneficiamo soprattutto noi dell'Occidente più ricco, più opulento. E poi c'è il tema della transizione veg, cioè dalle proteine animali a quelle vegetali, e degli allevamenti intensivi. Il contributo delle fabbriche animali al riscaldamento globale infatti è molto pesante, perché gli allevamenti sono la causa principale della perdita di migliaia di chilometri quadrati di foreste, oltre a rilasciare in atmosfera tantissima CO2. Pensate che gli allevamenti contribuiscono al 14,5% di tutte le emissioni antropiche clima alteranti. Sarà quindi particolarmente interessante ascoltare il servizio su COP27 del nostro Francesco Panier. Pesano per un terzo delle emissioni globali, eppure i sistemi alimentari restano sistematicamente esclusi dalle politiche internazionali sul clima. Nella decisione finale del vertice di Sharm el Sheikh, il tema del cibo e dell'agricoltura è stato incluso solo nel preambolo, anche se si tratta della prima volta che accade. Il vertice, il 27esimo, quindi la COP27, si è conclusa domenica scorsa con un accordo che sa di ennesima occasione persa. In sostanza nasce un fondo per risarcire i paesi più colpiti dalla crisi climatica, ma chi e quanto lo riempirà è tutto da vedere. Tornando al cibo, tutti sembrano concordi che si parli del problema anche nelle prossime COP, ma le divergenze emergono quando si arriva a discutere delle soluzioni. Da un lato, i piccoli produttori, con le ONG e gli attivisti per il clima, vogliono una redistribuzione equa delle terre e dei sussidi al settore agricolo, la chiusura degli allevamenti intensivi e fondi dedicati per l'adattamento al cambiamento climatico. Dall'altra parte c'è la Aim for Climate, alleanza fondata alla COP26, quindi lo scorso anno, da governo statunitense ed Emirati Arabi Uniti, che annovera sotto il suo ombrello un gruppo di attori del mondo industriale, finanziario, accademico e filantropico e propone di orientare le politiche climatiche in campo agroalimentare verso soluzioni di mercato, evitando una regolamentazione diretta. L'iniziativa è dominata dall'industria della carne e dell'agrochimica e concentra le sue proposte sull'espansione della cosiddetta agricoltura di precisione, che non è nient'altro che una meccanizzazione spinta del processo produttivo in combinazione con le nuove tecnologie di rilevazione satellitare, gestite dalle più grandi piattaforme di Big Data. La speranza è incrociare dati meteoclimatici e sulla composizione del terreno, ottimizzare l'uso di pesticidi e fertilizzanti chimici. A questo si aggiunge il tentativo di contrastare la pressione pubblica sull'insostenibilità degli allevamenti intensivi attraverso la formulazione di nuovi mangimi proteici che riducano le emissioni di metano provocate dalla digestione degli animali e permettono così all'industria animale di fregiarsi del bollino di sostenibilità senza fare sostanzialmente nulla di nuovo. La fiducia di fondo nell'innovazione tecnologica trova terreno fertile non solo nei gruppi di interesse industriali, come abbiamo visto, ma anche in nuove iniziative come la campagna Reboot Food, promossa alla COP da un gruppo di organizzazioni filantropiche che ha scelto come testimonial l'editorialista del Guardian George Monbiot. Il ventaglio di richieste in questo caso comprende la legalizzazione delle nuove tecniche di manipolazione genetica per colture più efficienti, l'investimento in carne sintetica e quello in carne coltivata. Manca, possiamo dircelo, una visione antispecista del rapporto fra cibo e crisi ecologica, che possa aprire un dibattito più profondo e rivolto al cambiamento. Ma forse, è triste dirlo, i vertici sul clima non rappresentano uno spazio dove queste voci al momento possono trovare ascolto. Torniamo ad aggiornarvi sulla sorte degli animali nel conflitto tra Russia e Ucraina, cosa che abbiamo costantemente fatto in questi mesi. Stavolta lo facciamo attraverso un commento di Francesco Cortonesi, autore e attivista per la liberazione animale, commento pubblicato sulla rivista Veganzetta, una rivista online antispecista. Proprio in questi giorni testate giornalistiche hanno raccontato la storia degli animali prigionieri nello zoo di Kherson, che sono stati portati via dai russi durante la ritirata dei giorni scorsi. Il video che ritrae un soldato russo che agguanta un procione da una zampa in malo modo e cerca di metterlo all'interno di una gabbia con altri animali ha fatto il giro del web. Inevitabile è stata la risposta degli ucraini che sui social media hanno trasformato la notizia in meme, prendendo in giro i russi e trasformando il procione in una sorta di eroe di guerra, indomito e pronto a tutto pur di non farsi catturare dai russi. Tanto sul serio è stata presa la cosa che qualche ora dopo è circolata la notizia che in cambio del procione il governo ucraino sarebbe disposto, sostengono alcune fonti, a rilasciare addirittura prigionieri russi. Vero o falso che sia, e sicuramente sono notizie false, in un teatro di guerra dove gli orrori sono all'ordine del giorno, è inevitabile che certe notizie finiscano per non essere prese troppo sul serio. Resta però il fatto vero che gli animali non hanno nulla a che spartire con le nostre guerre e tuttavia finiscono vittime della nostra ferocia. Gli animali dello zoo di Kherson, secondo le autorità russe, in realtà sarebbero stati evacuati per tutelarli dal rischio di un allagamento causato dal pericolo di bombardamenti ucraini su una diga, la diga della centrale idroelettrica di Kakhovskaya, e ora si troverebbero sani e salvi al parco Taigan Lion, o Taigan Lion, non sappiamo come pronunciarlo, in Crimea. Dall'inizio della guerra sono morti centinaia di cani, gatti, asini, bovini, delfini, cavalli e altri animali che erano detenuti all'interno di strutture come zoo, giardini zoologici o strutture che sono state bombardate. Solo allo zoo di Kharkiv, con il bombardamento avvenuto il 5 marzo scorso, sarebbero morti, secondo alcune fonti, quasi 1000 animali. Adesso parliamo di cibo, parliamo delle reazioni anche un po' isteriche nei confronti della carne sintetica, la carne coltivata in laboratorio a partire da cellule animali. Recentemente negli Stati Uniti la FDA, la Food and Drug Administration, ha diramato una nota nella quale sdogana la carne coltivata, cioè carne di laboratorio, che si sviluppa in vitro a partire da alcune cellule animali e che, se opportunamente commercializzata a prezzi sostenibili, potrebbe salvare un numero esorbitante di esseri viventi, oltre a evitare le emissioni ambientali degli allevamenti. Tutto nasce da questo primo assenso che la Food and Drug Administration ha dato ai nugget di carne di pollo coltivata della startup californiana Upside Foods. Una decisione attesa da mesi che potrebbe dischiudere le porte del mercato statunitense, un mercato gigantesco, alle decine di startup che stanno lavorando proprio sull'agricoltura cellulare. La reazione è stata grande in tutto il mondo. Scorrendo le notizie, gli argomenti contrari si dividono specialmente tra chi ha il timore di dipendere dalle multinazionali straniere e chi teme più concretamente di perdere posti di lavoro, saperi e tradizioni locali. Quando si segnala il rischio che il cibo diventi un affare per un bel po' di gruppi finanziari e multinazionali, bisogna far notare che questo è già vero per la maggior parte degli alimenti, che infatti chiamiamo commodities, come riso, mais, soia e grano. Slow Food Italia, giustamente, fa notare che quando un alimento è diventato una commodity, cioè una merce di scambio sui grandi mercati internazionali, si svuota del suo significato culturale, del legame con i territori, con le comunità che ci vivono, con i loro saperi e le loro tradizioni. Purtroppo le cose stanno già così e proporre un'agricoltura a filiera corta, che è sicuramente una cosa positiva, però dal nostro punto di vista non può e non deve necessariamente significare difendere gli allevamenti, che sono indifendibili sia dal punto di vista etico che ambientale. Ma soprattutto troviamo veramente funambolico sostenere che sia possibile allevare in modo rispettoso. In fondo sono animali fatti nascere per morire, quindi non capiamo dove possa esserci il rispetto. Coldiretti ha una critica diversa, diremmo più nazionalistica. Parla di Made in Italy, dice no ai prodotti sintetici artificiali e insinua che tutto quello che non è naturale fa male e propone quindi invece la sana alimentazione della dieta mediterranea. La nostra posizione è nota. Siamo contrari alla concentrazione della proprietà del cibo, quindi siamo favorevoli a una filiera corta, produttiva e distributiva, possibilmente chilometri zero. Siamo solidali col mondo contadino che già dalla fine degli anni 90 invoca la sovranità alimentare, che non ha a che fare con il sovranismo politico perché nasce dai popoli poveri del sud del mondo quando capiscono la necessità di opporsi allo sfruttamento delle grandi imprese multinazionali che sono interessate unicamente ai profitti. Ci sentiamo quindi un po' distanti dai discorsi sia di Coldiretti che di Slow Food, specialmente quando inneggiano alla carne, parlandone appunto come di un concetto astratto, di qualcosa che non appartenga a dei corpi e che secondo noi non va mai scisso neanche concettualmente da quei corpi, perché si parla di viventi che non hanno nessun desiderio e intenzione di sacrificare le loro esistenze per finire nei nostri piatti. In questo senso, se la carne sintetica potrà dare una mano a risolvere la grande questione della riduzione del consumo di carne animale, ben venga, posto che per noi però la soluzione non può essere tecnologica, ma deve essere politica, perché appunto è possibile informare le persone proponendo una nuova cultura che incentivi il consumo delle moltissime alternative alla carne che sono vegetali, che sono naturali e che sono locali. Continuiamo la nostra carrellata di attualità dedicata all'animalità con una notizia che abbiamo trovato ben dettagliata sul portale money.it del 20 novembre scorso. L'ultimo mistero del web vede protagonista uno strano video che inquadra un gruppo di pecore che girano in cerchio senza sosta. Accade nella città di Baotou, in Mongolia, dove le telecamere di sorveglianza di un allevamento di ovini hanno ripreso questo particolare comportamento del gregge, con un video che è diventato in poco tempo virale. La proprietaria dell'allevamento ha dichiarato di essere stupita da questa attività, che non è mai stata osservata prima. Riscontrabile peraltro soltanto in uno dei 34 ovili della fattoria e in particolare nel numero 13. Proprio questo numero ha dato luogo a numerose speculazioni sul possibile motivo dietro il continuo girare delle pecore, che si scontrano con le spiegazioni logiche e scientifiche. Nel dettaglio, alcune pecore hanno cominciato a girare in senso orario a partire dal 4 novembre e presto sono state imitate dalle compagne. Pare che ad oggi gli ovini non abbiano ancora terminato questa curiosa attività, ma non è chiaro se si siano fermate per riposarsi o per nutrirsi. Il cerchio perfetto formato dalla marcia delle pecore insieme al panorama cupo hanno lasciato un profondo senso di inquietudine in gran parte degli utenti del web, che hanno condiviso il video. Questo poi si è aggiunto all'assenza di spiegazioni per il fenomeno, perciò in molti hanno cercato motivazioni soprannaturali e sono emerse leggende, miti, antiche paure. Ma non sono mancate anche le teorie scientifiche. Tra i vari pareri a riguardo, a noi sembra che il meno accreditato sia alla fine il più realistico. L'origine di questo strano comportamento delle pecore è dato dal forte stress di uno o più soggetti e il meccanismo di imitazione farebbe il resto. Vivere in un recinto, senza stimoli, separati da qualsiasi ambiente naturale, non può che essere un'esperienza terribile, frustrante e deprimente. Negli animali rinchiusi in gabbie e recinti si assiste spesso a movimenti stereotipati, ad anomalie nel comportamento. Perché quindi non mettere questa evidenza prima di qualsiasi altra? Perché forse non vogliamo riconoscere che è l'allevamento stesso il problema. Niente foie gras, niente fegato d'oca alla mensa di re Carlo III. La notizia corrisponde alla risposta che ha dato la Casa Reale inglese a una richiesta del gruppo animalista PETA. La Casa Reale ha fatto sapere che il nuovo sovrano ha deciso di bandire il fegato d'oca da tutte le residenze reali. Questo non deve sorprenderci perché Carlo d'Inghilterra si dichiara ambientalista da molti anni ed è proprietario di fattorie biologiche che allevano animali, certo, ma lo fanno, secondo lui, in modo rispettoso, cosa della quale noi abbiamo stigmatizzato più volte il non senso. Comunque Carlo ha rinunciato al foie gras e questa è già una piccola notizia. Non è chiaro però se il sovrano risponderà favorevolmente anche all'altra richiesta del gruppo PETA, se userà le pellicce di ermellino sintetiche per la cerimonia di incoronazione che si terrà nel prossimo mese di maggio. Il foie gras, uno dei vanti della cucina francese, è da tempo sotto accusa nel mondo anglosassone per la pratica dell'ingozzamento delle oche, che viene giustamente ritenuta crudele. In Gran Bretagna, infatti, è vietata la produzione di foie gras, ma non la vendita, e alcuni chef hanno elaborato una versione vegana del foie gras, che si chiama faux gras. Faux, in francese, vuol dire falso. E quindi, viva il foie gras, il falso fegato d'oca, che certo non ci fa impazzire come ogni prodotto che esprime una sorta di nostalgia per l'alimentazione carnista, ma che, se può essere utile in alcuni ambienti particolarmente tradizionalisti a salvaguardare sia le tradizioni che la vita degli animali, rappresenta in fondo il male minore. The street, oh girl, she likes the boys in the band, Anche questa settimana abbiamo sfidato il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, chiedendogli di dedicare una ricetta cruelty free alla conferenza sul clima, la COP27, e quindi alla città di Sharm el Sheikh. Riuscirà il nostro talentuoso chef a trovare anche questa volta un nesso? Sentiamo. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Se le notizie ci portano a Sharm el Sheikh, è doveroso raccontarvi la ricetta di un piatto tipico della cucina egiziana, il kushari, che assieme alle falafel è uno degli street food più gettonati del paese ed è totalmente vegetale. Gli ingredienti per 4 persone per il kushari sono 150 g di lenticchie verdi, 80 g di ceci, 150 g di pasta corta anche di formati differenti, 150 g di riso tipo jasmine, 200 g di passata di pomodori, 2 cucchiai di farina tipo 0, 2 cipolle bionde, 1 cucchiaino di semi di cumino, 2 spicchi di aglio, qualche foglia di alloro, peperoncino, olio extravergine di oliva, sale. Lasciate i ceci in ammollo in abbondante acqua almeno per 8 ore, scolateli e sciacquateli, quindi fate cuocere in abbondante acqua con qualche foglia di alloro. Una volta cotti, scolateli. Nel frattempo lessate le lenticchie in acqua e alloro per circa 20 minuti. Lessate anche pasta e riso in acqua bollente salata, scolandoli quando sono al dente. Mettete i legumi, la pasta e il riso in una ciotola e mescolate. A parte pulite e affettate una delle due cipolle, fate scottare in una padella con poca acqua e quando questa si sarà ritirata, aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine e l'aglio tritato. Quindi fate soffriggere per qualche minuto. Unite la salsa di pomodoro, il cumino, il peperoncino e aggiustate di sale. Lasciate sobbollire e ritirare per circa 30 minuti. Infine pulite e affettate la seconda cipolla, infarinatela e friggete in olio extravergine finché sarà ben dorata. Disponete nei piatti la pasta e il riso con i legumi, condite con la salsa e la cipolla fritta e servite. Gabriele Palloni è autore di alcuni libri di cucina. L'ultimo, edito da Newton Compton e fresco di ristampa, si intitola Se vuoi vivere sano, cucina vegano. Per questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana alla nostra redazione al completo, composta da Valentina Reggioli, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Anna Granata, Gianluca Masala, Francesco Panier, Valentina Baronti e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 670 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.